Eccomi. Antonio Bongolo. Ciao Antonio, buonasera. Oi va, ciao Massimilia. Sto facendo una buona anche di domenica. Noi non ti rimane la matta. Aspetta che mettiamo a 10. Quanti fatti c'ha questo veloce? 10. Sì, più o meno. Come mi senti, Anto? Come questa? Mi ha portato un bel ragione, Massimiliano. Io lui ci sto usando, vai. Stavo provando. E mi sta mettendo... C'era un filo attaccato della RAM 48, non si illuminava, adesso me l'ha attaccato. E lui è pratico aprire, che ci vede di più. Sì, io seguo il circo, lui ce l'ha rifava sempre. Ascolta, Seria, quando ti trovo ti devo dire una cosa. Va bene. Va bene. Anche a me? No, no, devo dire a Massimiliano una cosa. Va bene, capo. Ciao, cantare di infame! No, oggi non mi pare, dice lì. No. Fermo il vigile, vado. Andiamo giù con la mano. Si è lavato, va un fermo il vigile, ma gli ha già trattato di maricariti, ragazzi. Diversamente la radio? Va. migliore. Ti ringrazio, è meglio, vediamo a tutti. Volevo fare un tonno. continuamente anche devi sempre preoccupare. Un'insalata e quella carne così, fatta con i capri, a cena. E a pranzo noi ci ho mangiato il riso alla milanese con i funghi a tonna, un pezzo di capretto e poi c'era il tiramisù. Vabbè, l'ho solo gustato, dico la verità. La Viviana ha detto regala alla tua madre un po', regala la quella di fronte, perché se no se non vedo mi viene gana di mangiare e mi fate male. No. Io un altro giorno mi sono mangiato un bel piatto di gnocchi, gnocchi piccoli, sardi, due fettine belle, di quelle grandi, imparate, zucchi, padre, un arancio, ma ho mangiato altro. Stanotte, questa insalata, una fettina, mangio due arance, adesso, due, tre, Certo, ma due fettine sono un bel vino. Io mangio una fettina, o mi mangio un pesce, o mi mangio... Due fettine non le mangio mai. Prima sì, quando facevamo le arrostite, a Sogidù me le mangiavo, se vi penso. Dopo c'era, diciamo, questo amico mio che... era l'agno, ma l'agno baro, e mangiava come 5 persone, noi arrivato a fine lui ancora mangiava. Perché la rovina non l'hai mangiato? No, no, non mi sono detto un pavesale. Pavesale cosa hai mangiato? Che c'è quello? E non mangia. Mi ha dato un pezzo di cappetto, e io le tirami su, e io dicevo con i funghi, allora l'hai mangiato già. A pranzo però, a cena ho mangiato solo... A cena ho mangiato solo i petti di pollo fatti con i capri e con i petti di pomodorino e con le cipolle, proprio sono buoni, questa è l'unica maniera che mi piacciono i petti di pollo. Anche a me, allora, tipo scaroppina, una cosa del genere. Va bene, va bene. Ok, cosa stavo dicendo, va bene, niente, ma adesso metto a posto qua. Metto a posto questo bello casino, però non voglio più l'uomo di nulla. È un casino qua, ma io non so già. L'altra volta l'ha chiamato questo amico, mi fa io luce roba, dovevo fare uno spettacolo lì a Lausanne, dove ci sono gli autorabbaggi. C'è il Milano Gru. Aspetta, vabbè, aspetta un attimo, ti faccio un panino. Come mai quel panino non lo sono mangiato? Fatto un panino con salame, no? Perché poi devo trovare che andiamo a mangiare, magari un panino, una paninoteca. Ma dove sta il panino? Mi ha saziato? Come sai non mi prendo niente? Sono venuto, tre, quattro spine lì al carro. Era un po' attramaiato. Ecco, ma non mi sono mangiato quel panino. Perché tu sei andato il panino a secco? Ho mangiato un panino a secco e avevo ancora la mamma. Non mi sono ricciato. Vicinate, che schifo. Poi non so come sono mangiato. Due banane, mi stavo, due arance, se non mi ricordo. No, un arancio e due banane. Io lo posso capire te che tu se mangi qualcosa in più non ingrassi, ma io basta che bevo un bicchiere d'acqua in più assimilo subito, capito? Quindi mi devo regolare, se non mi regolo guai. Infatti prima non ne stavo più mangiando, stavo mangiando insalata, poi mia moglie ha cominciato a mangiare qualche cosa, assaggiala almeno un po' qua, un po' là, bumba, e ti butti sempre. No, negativo. Ho avuto una parentesi, ma poi ho tagliato un taglio. Un pacchetto di sigarette a casa. Sono due pacchetti. Però, 5 pacchetti hai messo. E chi sono tui? Già so, dobbiamo Natale, mi capita sto fumando. Ma neanche ci penso. Ma che tieni a fare per farti avere la tentazione? Oh. Ma con cazzo così. siccome questo è sempre da fuori, ma adesso ogni tanto viene da un qualche camma, ma glieli dà. Capito. Era io qualcuna così, ma non... Niente di coso, va. Una ogni tanto. Vabbè. Aspetta, dimmi, no. Non ho niente, io ho più una. Bene, Luca, io dico sempre una cosa, che la tentazione ce l'ho sempre, ti dico la verità, è più forte di me. Quando vedo gente fumare, mi vorrei chiedere una. Mi viene sempre la voglia, io dovrei uscire con gente che non fuma, allora sto tranquillo, non è cerco, poi viene a casa Lucia quella di fronte, fuma, cazzo, viene Samuele, ragazza Emanuela, fuma, poi interno a fumare e mi vede a lui fumare. Cazzo, guarda, pare che sia fatta apposta. No, io sto contento che fuma, devo segnare di partito, che schifo, ma non calo proprio. No, se cazzo non mi rivenge. Non me ne viene. E ripeto, io guarda, sono stato 5 anni che non fumavo manco una sigaretta, 5 anni. Poi è bastato un momento un po' così e ho ripreso subito. Ho ripreso, me ne fumavo 2 pacchetti al giorno pure. E ti dice non avevo mai dubbio, non me li fumavo da buco. Poi non si parla quando andavo a pescare, ui, se ci penso quanto ne fumavo. Tornavo a casa che mi sentivo un sapore di sigaretta, di go. Che 2 pacchetti, una volta 2 pacchetti e poi non inizia a fumare. No. Così da schifo, e quando ti riduce a così devi darle un taglio, perché sennò poi... Stai male perché fumando con le sigarette ti senti male, per la fine ti collassa. Devi dare un taglionetto e poi magari uno ogni tanto. Poi c'è mia sorella che fuma solo d'estate, mia sorella, quella che abita a Porto Torres, fuma solo d'estate, si compra le sigarette d'estate, quando ci sono gli spettacoli si fuma la sigaretta, perché va a vedersi le commedie, le cose, si fuma la sigaretta. Poi arriva finita l'estate, da un taglio, io non so come cacchio faccia, a questa comanda lì, a questo modo di fumare è strano, là. Fuma quando vuole lì è buono, non è che dico la comanda la sigaretta. No, tu dici no, e via. Io quando fumavo non aveva problemi, la verità, però il sapore della sigaretta di Alediana era strano, il sapore mi faceva proprio schifo, era stranissimo, però che io le compravo, cioè, invece sentivo un sapore strano, tipo non pareva più sigaretta, non sembrava che era un tabacco, sembrava che c'era roba schifosa in mezzo, tipo adesso sai, il sapore pessimo. Aspetta un attimino. E già da lì non volevo più fumare. Poi ho iniziato con questi lavori strani, allora ho smesso del tutto. Io fumavo Camel Light, quando ho smesso ho smesso con le Camel Light. E prima fumavo le multifilter, prima ancora le Marlboro, poi le multifilter perché erano più leggere, poi ho fumato sempre Camel Light. Ti dirò che problemi di cose non me ne davano, non so cosa mi dava, bruciore di stomaco, quello mi faceva. No, a me proprio schifo. Non mi interessa proprio già. Al momento non mi interessa, magari più in là, meglio sa, meglio mai. Ma è meglio che non ti interessi mai. È una conquista a me non fumare, Luca, non ti credere che sia una cosa. È una conquista. Se uno non fuma la salute la guadagna al 100%, io lo so che è così. Perché sia l'infarti, sia l'ictus, sia quel che sia, cancro, tumori da tutte le parti, ti crea tutti la sigaretta. Lo so, vabbè, comunque un casino, beh, un casino, perché fa male. Vedi, Massimiliano ha smesso del tutto anche lui. Vabbè, poi si mette qualche giro in più e l'avevi fatti. Stiamo compensando un attimo già. Ma Claudio, è rientrato? Ehi, vabbè, sto provando la 48 e mi ha cambiato le lampadine, Massimiliano. Come va la radio? Ho toccato qualcosa, va bene? No, già va bene. Sempre la sua, là. Non ci sono problemi. È uguale al solito. Boh, mi ha toccato leggermente il coso lui, il Mickey Game, dai. Però già dovrebbe andare bene così. Ok, adesso rimetto il microfono suo. Ma questo che microfono è? Questo è il microfono della Game Quinto, quello che tu hai dato a Luca, ce l'ho sempre io, questo non si tocca. No, non è dato Gianni quello. Guarda, no, guarda, no, tu guarda. Perché va bene, allora lo tengo sempre qua sulla RAN 48, c'avevo quello della CTE, Massimiliano ha detto che se vado a comprare tutto è frutta di tiro, non mi interessa tanto a me. Va bene questo, ho capito. No, allora tu me l'hai dato, tu già c'era un tasto rotto, c'è ancora qua, e ti dico c'era un tasto rotto, non è importante. E lui si riusciva a recuperare, invece qua mi ha trovato con l'apparecchio famoso, con l'apparecchio base, come guarda Roberto, dopo stupo il verniciato. Secondo me era quel tipo di microfono, gli avevo messo un altro tipo di microfono. O mi sembra il suo originale, adesso non mi ricordo. Ma mi ha fatto guarda, l'ho pulito bene, perché la roba l'ha comprato da fuori, boh, era sporco. L'ho smontato pulito, l'ho attaccato perché gli serviva, boh. Il 48 c'era prima mi sbaglio, se non, non lo so, dai, non mi ricordo adesso bene, è preciso. È passato un bel tempo. Il 48 che ha venduto a me, che poi io l'ho dato a Walter, mi aveva dato un Ranger 5009, non mi ricordo il numero, 2950, un Ranger 2950 e 100 euro. Gli avevo dato quello là per metterlo nel furgone, quello di Claudio, che a sua volta avevo comprato da lui. Allora si conferma, e io poi ho preso questo con il doppio modulatore da Gigi Vulcano, questo è il primo che ha fatto Gigi. Va bene, non ci stanno problemi. E invece ce l'ho di nuovo io, Luca. Non so di chi era quello di Massimiliano, boh, chi gliel'ha dato, l'ha comprato, è nuovo. Adesso me l'ho messo a fianco al console primo. Vabbè. Devo togliere lo standard e devo sollevare. Non ci stiamo più, va bene così. Cosa? perché quando li apri queste radio devi stare sempre attento, allora lo stavo provando. Va bene, passo con un'altra radio, vai. Pensare che quando ce l'avevo svanita Massimiliano con la radio si fa bassa bassa di radio, poi a furia di controllare il fare si è riuscito a metterlo ben a posto, va. Lui si va a basso del radio prima, poi l'ha aperto l'LC. No, non l'ho aperto io, me l'ho portato a me, me l'ho aperto io, era così mio e l'ho aperto io, questo che sto usando adesso con saletta, si è aperto l'altare che trece ancora meglio. Appaga, per me perché cosa che ce l'ha? Di saletta, no, spottoglia, ma sono tutto. No, pensavo che fosse l'apparato che gli avesse messo il bico. No, si tocca l'apparato originale. Non lo sapete, di volta mi dimentico e c'è sempre il bico attaccato. Ho messo l'ho te l'ho chiesto perché pensavo che l'avesse messo bello, è un bico. Ehi, uno più bico. No, siccome il salento lo uso spesso il mano laterale con il con quello decametrico, capito? Con quello che stavo dicendo oggi con 101, e allora lascio sempre il bip per quando chiudo la trasmissione, perché effettivamente il bip perché è nato per usare il mano laterale in modo che il corrispondente si accorga quando termini la chiamata, perché la mano laterale essendo una banda un po' più rumorosa hanno inventato questa cosa, hai capito? Sì, lo sapevo, era per quello. Lo sapevo. Con questo esce bene quella radio. Ehi, ma no, gliel'ho fatto io. L'avevo portato, ma l'avevo lasciato. Ti ricordo che l'avevo fatto sentire una volta lontano più te. Però l'ho avuto anche io a casa, l'ha dato anche a me a provare. Ehi, già me l'ho detto. È un bel apparato. Cosa che c'erano da fare sono fatte, là. Interessante che la manopola dritta è adesso. Sì, sì, no, non c'è niente di stop, nulla. È tutto a posto, tutto a posto. Le scritte sono tutte giuste. Quando ti sposti a N, L, N, B o Phone, ti si illumina, ti dice che è acceso, trasmette, è acceso, stand-by è acceso, FAT, draw, off, on, ti dice tutto, ti illumina tutto, capito? Ti ho cambiato, c'erano mail, ti ho cambiato tutte quelle che ci volevano, ti ho fatto le cose che dovevano essere fatte, e va bene. Ascolta una cosa, allora questo qua è Salerta, così completiamo l'opera, questo è Salerta, ok, adesso io metto 80 più 3, mi dici secondo te, secondo te, questo baracchino, c'è il microfono, sei Salerta o 80 più 3, ok? Vai! Ma pompom di più, l'altra rimane più corposa come radio, sono belle tutte e due, solo che sono diverse come radio, questa qui pompa di più, è più prepotente, più pratico, di l'altra invece c'è più bassi. Ah, ecco, proprio la differenza, ecco quello che mi interessava capire già, quindi la differenza è proprio tra la tonalità medio bassa e medio alta, però con i microfoni vanno bene tutte e due. Ma questa è una bozzenza. Va bene, questo è Super Sideric. Super Sideric, non venne, e adesso qui c'è la gioia, cambiato il tipo di valore, quello americano, quello grigio originale che ci aveva la buona animali, se lo vuole tenere lui, adesso vediamo se non lo va. Facciamo 80 più 3 e lo lascio sulla radio che lo sto usando, il tale pietra, vabbè, il tale pietra lo posso mettere anche qua, e il super side che sull'altro buono, comunque me ne serve un altro di tanto. Adesso devi ritirarti anche quella l'anno, se la gole ritirarti. No, non lì Gio Maria a portarmi, non sono passato, gli altri anche oggi. Va bene, tre passando, no, vieni tu a portarmi, perché l'ho invitato, sai, qui un'altra ci è venuta. E allora passa lui a portarmi, che appena ha detto finisce che sta sistemando la campagna, appena finisce di sistemare la campagna, ma se la sa, io volevo vedere anche la radio, eccetera, eccetera. Sì, io, e va bene. Mi uscio. Adesso ti sei riempitato tutto, eh? Belle sono già, belle tutti, tipo il Joy Zodiac B5024 che è bellissimo, è un 23 canali, però è bello. Poi se ti ricordi c'è anche l'Inuit base, come pare avevi visto, sempre 23 canali. Poi c'ho tutti in base, poi c'ho il console primo, l'altro mi deve portare Gio Maria che non ce l'ho, quello del Sommercamp, poi c'ho lo standard, sempre base, il DAC, un altro Sommercamp, sempre di Mario Mao, che è l'FR50B, e poi c'ho come virtuale c'ho l'MS200, il Sears SSB50 che sono grandissimi, sono grandi veicolari, non so quanto la fai da KB23, no? La KB23, il Presidente Lincoln, il Presidente Jackson, il Presidente Madison. Ce ne manca uno di... Sono bene 200 euro di... Il Presidente, aspetta, non mi ricordo, quello che ti manca qual è? Il George. Il Presidente George, quello mi manca. Quello mi manca. Quello è quello base, bellissimo, grigio, che c'aveva la mano, mi ha battuto un mio che si è detto, fai su internet, che Giorgio mi pare che lo stanno volendo a Centurio. Centurio base? Ma non è il base, il Giorgio è quello, diciamo sì, è un bel grande, ma non è proprio base. Eh? Come l'Inco rimane, come l'MS200, capito? Come l'MS200, una cosa del genere. No, i colori no, cioè, non so veramente, li capito, invece in base li metti uno sopra l'altro, colore per colore, quelli in legno sono tutti con quelli in legno, quelli in ferro sono con quelli in ferro, e va bene così. No, anche così no, se trovo, non mi ricordo, guarda che ce l'avevi tu, l'avevi avuto tu base, che era grigio, cromato in grigio. E qual è questo grigio? Tutto Lafayette Telsat, che è quello che mi ha dato, mi aveva venduto cosa, Marco Scorpion, il Telsat, e poi era voluto Walter, l'ha volato a lui, poi base cosa già avuto, il presidente, quello che c'ha adesso mio vicino, cosa ha avuto? Ho avuto quello in noi il tuo che mi avevi prestato, poi te l'ho restituito. Ma non è che ne abbia avuto chissà quanti, vabbè, poi non si parli di regala, se ne ha avuto 3 o 4, no, 4 ne ha fatto, non l'ho regalato anche a mia cosa, ma no. No, tu ce l'avevi un base già, me lo ricordo, avevi un base, praticamente era cromato come il Dante, che era sempre della... c'era il presidente, non era unico, il presidente, ed era presidente Madison, può essere quel grande base tipo Galaxy, mi ricordo che era Washington, quello che è cromato davanti e nero sopra, Washington era presidente, già sito presidente unico. Mi sentivo nel Washington, quello lì non c'ho io. Quello di base, ho capito, quello di mi manca, l'ho preso, lo sto cercando, c'è la morte al doppio e non me lo volerare, io gli ho detto, te ne ho un altro che tu non hai, e invece no, non me lo volerare, vabbè, ma già lo trovo, e prima o poi già lo trovo, oh, mi piace parlare anche con i baracchini, capito, quando escono bene a me la radio mi piace, quando non escono bene, allora lascio perdere. Ah, mi sono dimenticato del motto, non avevo visto che intero, l'ho messo in terra, e si bacio base. Ma sai che ce l'ha quello che stai cercando tu, lì vicino? Il presidente Washington. Capo. Non vedo. E non è quello che avevo io prima. È quello che usa a casa sua. E allora, quello che lo faccio è forte, così più grande. E sono davanti alla dottor Giuseppe da me col microfono, e che ce l'avevo a casa, capito? Io sono uscito così, in fretta, tu mi sono qua da Nico, se passi ci prendiamo un caffè, infatti sono uscito a prendere le sigarette, e c'era il tris aperto, e sono passato a Nico a trovarlo, e completamente diverso da quello che conosce lui. È stato molto più grosso, vabbè, povertà. Lui è di marzo, io sono di novembre, abbiamo quasi la stessa età, un po' di mesi di differenza. E niente, ci abbiamo preso una cosa, un Giuseppe, ci ha fatto una sigaretta e poi mi sono andato a casa. Se ce l'aveva in macchina mi avrei fatto avrei fatto tutta la pista di microfono, avessi fruscia, credo così da quello di Falchetto. Tutta frusci, tutto ai meschi, a giù molto male, no, che avessi, si esce bene, mi sarebbe sempre quello di Antonio. No, ma se non mi sta più fischiando, ha detto che gli ha cambiato la batteria, che era la batteria sicuramente che lo faceva nelle scale così. Ah, se l'ho sentito io anche Urs, un po' esce, un po' non esce a tratti, c'è lì c'è da rivedere tutta la lampiata sotto, cambiarle, le metto la precettina, ma la precettina vera e propria in rame di massa, con gli occhialini nuova, e vedi che non fischia più quello. Comunque ce l'ha lui, Presidente Washington, che poi lo fa la Presidente, il Presidente Presidente, era tutto una casa. Ecco. Esatto, è il comandante Hockeywood, io ho le chiature trio. Il microfono, ad esempio, l'MC60, quello che ho io, quello che spinge più di tutti, no, che esce un bel flop perché devo abbassare il mic del 140, cosa che non faccio con l'altro MC60, quello è trio Hockeywood. Capito, non è Hockeywood MC60A, quello lì è MC60 trio Hockeywood. Si facevano molto, molto meglio prima, capito? Prendi quello di Berito, quello di Berito, gli ho detto io, cambia il punto della massa e non fischia più, capito? Avanti, Antonio. Sì, ciao, buonasera Claudio. Buonasera anche agli altri amici, che non so chi ci sia. Chiama, stavo ascoltando il discorso, Claudio. Come ti sembra un discorso buono? Ma quello che stai dicendo tu, quello lì era il mio. Era il tuo, questo Washington? Ma l'ho fatto lì. Non sapevo. No, una bellissima radio, mi piace esteticamente, non l'ho mai provata a differenza di questi, perché la verità, tutti in base che ho io escono uguali, così come... Non so se il microfono, metto su per Siri che fa andare, però sia il console, l'ho provato ieri con Tanner più 2, addirittura va benissimo, perché c'ho il 2 e il 3 come microfoni che li abbino un po' a tutte le radio, però vanno bene tutti, sia Gloria che Noite, il console primo, Simba va molto bene, l'ho messo a posto, va molto bene, tutti i marchi, no. Quello che fa molto bene dei veicolari 23 canali è la KB23, quello la KB23 con Turner è una bella bomboletta, funziona bene. Adesso sto aspettando l'amplificatore, poi deciderò quale barattino attaccarci. Però la 48 non ce lo voglio attaccare perché prende un sacco di colpi. Secondo me, come mi ha detto Massimiliano, è meglio attaccare questo qua. Il Ruiz, che bello, 40 canali, compatto, è molto selettivo, molto silenzioso, ho provato a spostarmi e mentre parlavo Gianni sull'11 non ti sento più, con la 48 ti sento su 40 canali, fate un conto. Ma quello lì è un periodo, ce l'avevo anch'io qua, non lo sapete, l'ho usato anch'io per un pochino di giorni. E lui, sai che tu? Ah, l'hai amato Massimiliano per vedere un po' come andava e l'ho usato anch'io, in chiesa manca proprio, sto modulando con questo. Non era male, era un po' basso di radio, non era male, lui mi ha lasciato un pochettino di tempo. Vabbè, lui me l'ha portato a me e gli ho fatto praticamente un allineamento, gli ho fatto praticamente l'allineamento dell'LG e adesso eccolo qua, funziona perfettamente bene. Ok, a te Gianni. Anche troppo forte qua. Ma no, adesso va bene, confronto a prima che usciva un po' basso di radio, ma adesso va molto bene. Comunque l'aveva già aperta, mi pare Calvino la LC, forse tu l'hai aperta di più, ma mi pare che l'avessi già aperta Calvino. No, io l'avevo toccata, c'era una porta qua che stavo facendo la trattura dello Smith, ma la mia modulazione lo sapete com'è, a parte il fatto che lui la stava provando con un altro tipo di microfono, questo è un Turner con Super Siri che poi che c'ha una capsula di quelle ceramiche, spinge un bel, capito? Spinge un bel. Perciò anche magari la mia modulazione, il microfono te lo fa spingere un po' di più, ma lei il microfono ce l'ho a metà, fate il conto, a metà. Meno della metà addirittura, mentre con gli altri baracchini dovevo tenere un pochino più. più su della metà, capito? Così è a 2, guarda. Così è a 2. Oggi ce n'era uno su internet di Tamer più 3 grigio o cosa, stavo andando per prenderlo, poi c'è scritto cioè, funziona benissimo, non ha un grafo eccetera eccetera, c'è un piccolo particolare, ho cambiato la capsula, gli ho messo un'altra capsula ceramica. Capsula ceramica spinge parecchio, spinge parecchio, soprattutto con questi tipi di microfono, vanno molto bene, non so, vabbè. Va bene, c'è qualche domanda al momento adesso il canale 10? Ecco, prego. Prego, avanti. Eia, buonasera a tutti quanti, i componenti del canale 10, da questa parte Leoncino, super saluta con la buonasera. Ma ciao Leoncino, buonasera. Sento, una delle porcherie a radio si mettono a fare. Ho sentito Ruti Scorece e hanno mandato in diretta. Ma dove? Ah, è a fondo scala il segnale era. Manco sentito io, assolutamente. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. No, io qua non ho sentito niente, tu già ne hai sentito qualcosa? Gianni? Eia. Hai sentito Ruti qualcosa? Sì, li sto facendo anche adesso, sì. No, io non lo sento. Non arriva qua, è roba che ci avete lì vicino a voi. Ma mi passa? Se non parli di conti non lo so. No, non lo so, io sono amico del baracchino. Non lo so se vi passa, ditemelo. Ah. Passatemi. Giuseppe. Oh, dimmi, fra. Ma c'è qualcuno di nella vostra zona che ruta? Mi copre? No, no, oh, a te no. Non ho neanche sentito, guardi, se una verità non ho neanche sentito quella cosa. Ma è il corso di media o non lo so. Non lo so, vabbè. Pazienza, vai, pazienza. E tutta la sera questo segnale. Che stanno. Quando eravamo su 45 lo stesso. Stavano mettendo portanti, musica, di tutto. Sempre segnale 9.30. Io qua non lo sento, non lo sento. Giuseppe, riprendi? Cappa, riprendo, sì. Vabbè, no, avete cenato tutti quanti, sì? Cappa, perché la cena ci vuoi pagare, Giuseppe? No, sto dicendo. Adesso sardo, sì. E anche se non avessimo cenato con il router che tu devi sta facendo questo qua, non ti devi manco la gara di mangiare. E vabbè, già, e come dice quello, lasciamo perdere, e tutto il mondo è città. E Camerucci. E a qualcuno ne è uscito un gatto qualche. Ne deve uscire un'altra cosa, quello che dico io. Vabbè, dai, non voglio fare polemica perché è tanto. Continueremo sempre ad arrivare a picche, è capito, caro Bongurino? Ciao, è pure che vicino a me, è pure che ti raggio di pizzicà. E quando te lo pizzichetti ho tirato, tu la fa fare la libera culo, tirato. È imbecille. Stai attento, sai, amico, perché c'ho un macchinetto da chi si, stai attento. Attento, perché mi stai rompendo il coglione. Va col culo, eh. Lascia perdere Antù, non ti compromettere con queste cose, lascia perdere, che poi, hai capito, non ne vale manco la pena per un deficiente, hai capito? Ho tassinato di campionte, come ti ha già fatto una persona e ne ha finito per sempre di rompere il coglione. Guarda già, questo è il coso, il non è negativo. Vabbè, dai. Voi avete già mangiato, regia, però ho mangiato tutto sotto la mia figlia. Arrivata, vi saluto se ci siete, ci sentiamo dopo, va. Fregatevene, lasciate perdere, per problemi non ce ne sono. A dopo, signori, ciao a tutti. Infatti. Ciao Claudio, buona carica. No, no, no, io... come se non lo sentissi. Avanti, Giuseppe. Ciao Bla, buona carica, ci sentiamo dopo se può uscire, dai. Avanti Antonio Bombolo. Ciao, ciao Bla, rimani, non ti preoccupare, dai. No, non ti preoccupare, se per quello rimani, magari voi vi sentite. No, no, no, no, ce l'ha, io manco lo sento, Antonio, ma non ti lunga. Italia, stavo evento a Marco, cazzo. Vabbè, dai, continuate voi. Giuseppe, tu mi ascolti bene, sì? Comunque malo e dormi nervoso la notte. Ma attenzione che adesso comincia il caldo, non scherzarci troppo. Con la musica. Ho fatto un altro esperimento già. Sarebbe, Giuseppe. La colonnina esterna, l'ho messo nell'altro mobile, capito? Con la prolunga. E ce l'ho invece legata, quello deve essere attaccato al baracchino. Ce l'ho all'altra parte del mobile. Ho capito. Dunque, a meno per non stavano sempre vicino al baracchino e ce l'ho nell'altro mobile e va bene così. Anche perché rischi che ti faccia ritorno di RF quando moduli, capito? Invece così lontano non ti dà problemi. Sta uscendo sempre bene questo microfono, già, il coso è l'MQ5. Sì, sì. Ah, adesso non ci sta più un telefono, perché gli ho fatto anche quello lì, gli ho fatto una modifica e l'ho tutto quanto aperto e ho spostato quel cavo di coso di alimentazione e tutto quanto, hai capito? La massa gliel'ho spostata. Intente. E guarda che non siamo nel Far West qua, mi. Oh, guarda che ci vuole poco a abbigliare le pistole e spararevi. Ho finito il cannone. Che mi fai girare? Cappa, riga. Avanti, bombolino se ci sei. Ci sono già, sono un pochettino incazzato, sono. Gioca, e poi gioco io a schiaffe. Cappa, vai tu, le occhi. Cappa, lascia perdere. Come dici quel proverbio, tu, a parare macchi, orecchie sorde. Cambio. Yes. Preso. Dillo. Dillo a Feroso, grazie. ne entra, ce n'è uno nuovo, cazzo. Mettersi questo apparato in macchina. Gappa gappa. dicendo, ma è usato, ma è utilizzato gli alle mandalante rami di quella partizione di quale? Quello di quella di del figlio di mio fratello? No, di quello che stai usando, ma è usato gli alle questi PLC, ma è usato l'AE. Ah, questo qua, qui, a casa. Yeah. Chi è che le usate, sì? Era apparato, era. Nel coso, il caliper. Dico, bisogna muoverlo piano piano, ma dico che quando trovi la centratura si sente un bel bene, si sente. Però almeno per me, io, cioè, io quando era perfetto il banda laterale, era proprio tarato bene, era, e usciva anche bene. Cazzo, esce 25, 20 watt, 25 watt, non me lo ricordo adesso. Che capa, io lo so. E già l'ho già provato, con altre persone, ed esce a bomboletta, cazzo, è un demonio questo cazzo di radio. Ma è, sono troppo contento per questa radio e non lo cambio con niente, no, non è lo ormai, questo deve morire con me. Ma guarda, il mondo laterale usciva una meraviglia, infatti così, me lo vantavano, guarda, perché l'ho provato tante volte e andava bene. Ma adesso che poi ho fatto tutto quanto il lavoro, l'ho tutto quanto con la carta vetrata, l'ho tutto quanto ripiegato, tutto quanto, poi gli ho comprato le bombolette nere, l'ho spruzzato, l'ho fatto diventare un gioiello. Ma stavo dicendo, quello, tanto quello che ho io, quello che adesso c'è forte, oltre 25 parte l'altro. Banda laterale spinge, è una cosa micidiale, ma forte per ombre. Allora, uno non è, si usa, la usano poco la banda laterale. Beh, giustamente, stai solo qua in AM, poi va bene solo che gli manca quella cosa, gli manca solo l'FM, se no era completo qua. Allora già parecchi l'FM non ce la fermano, però ti posso dire che già va bene, dai. È un male non avere l'FM. Vabbè, pazienza, vabbè, lo teniamo così, già va bene così. Ce n'è anche per i porci, ce n'è per i porci a voglia. Quando esce in AM esce 5 watt, ce n'è anche per i porci. Gamba. E non esce esattamente 5 watt. Prima che esce intorno ai 9 watt. E vabbè, gliel'ho fatto abbassare io, quanto gliel'ho fatto calare a 5 watt, capito, da Antonello, perché sennò non potevo abbinare, hai capito che cosa, e dunque gliel'ho fatto abbassare i watt e tutto quanto. Gamba. Non mi hai buscato l'alimentatore? No. Sì. Chi è lì? Buonasera. Sera. Ah, io vengo avanti. E qui la festa. Cappa. I dolci ci sono. Cappa di Rogero, buonasera Sandro. Tigre da Porottolo, cioè cambio. Cambio il primo. Ok, ciao carissimo, ottimo. Aspetta che passiamo, vai. Che sono provato, no, va anche fastidio. Ok, buonasera. Buonasera, in compagnia mia e di Antonio Pombolo, di Alate Dolce, cambio. Ma ciao Sandro. Mia, ciao Pombolo. Fai qualcosa, metti qualche pillola. Posso fare, non posso. situazione come Antonio Scalosandro è un po' critica, se no avrebbe, si sarebbe, si sarebbe fatto sentire, è una posizione un po' aglio e olio, hai capito? Io ho capito, dai. C'è bisogno di un po' di peperoncino. Va bene, va bene. Giuseppe, anche io sono un po' in una situazione precaria. Mi ascolti? Alla grande, mi sta arrivando 9:10 Radio 5 qua, Sandro. Ok, dai. C'è un po' qualche problemino. Comunque, chiediamo. Come stavo dicendo Antonio, che io questo qua, l'Antonello Pomponio, gliel'ho fatto passare 5 quattro perché è causa maggiore, dunque era per a me, con 5 quattro mi ascoltano anche il capo al mondo, hai capito? Quando il baracchino è 5 quattro esci tranquillo, hai capito? Eia, già va bene, dai. 5 watt sono più che sufficienti, poi l'importante diciamo avere una buona antenna, poi per il resto... Ebbene, già viene da solo caro Sandro, nella posizione che sono io, dove ho piantato l'antenna io, sta uscendo più che bene, capito, sai, perché io ho un metro e mezzo di muro e fatti fuori lì e piantate le due staffe piccoline e ho messo questa Ringo che grazie a Fabrizio che mi ha regalato e vedi un po' come sto uscendo. No, già rende. Quella Ringo già rende. Ok, va bene. Ma come apparato lo stai usando? Io sto uscendo con una stazione base della Washington, hai capito? Washington, abbinato con la ZG M+5, cambio. Washington, non ho mai sentito nominare, vabbè, comunque già va bene. Ma Uniden, Washington, Gamba. Comunque Leoncino, l'hai visto da quando gli hai fatto quel lavoretto, non è successo più nulla. Cappa, giustamente, le cose, io te l'ho detto tu, le cose vogliono fatte bene dall'inizio, quando non avrai più, è come il coso, come il discorso del medico, del dentista, quando c'è il mal di denti, va dal dentista, si toglie via il dolore, via il dente, via il dolore. Avevo ragione io o no, cazzo, ha messo poco di spezzeria. Guarda che quella lì, quell'antenna lì, ce l'aveva già più di 8 anni sul tetto, non ha avuto mai problemi a chi ce l'aveva prima. Cazzo, immaginiamoci, perché sicuramente era bella isolata, bella fatta. Sicuramente adesso, hai visto che ha fatto a più punto. A più punto questi giorni. Oppure non è successo nulla. Giustamente tu fatto quel lavoro lì, ti ho detto, messo quella questione là, fatto sì, fatto quel lavoro del PL, tutto quanto nuovo, tutto quanto lì, messo la pomata e sai che quando metti la pomata il dolore passa, hai capito? La vasellina l'ha fatto bene, l'ha fatto. Metto sulle parti dove devi isolare e tu sei tranquillo, le stazionate saranno a posto. Poi cazzo ha piovuto questa mattina, ha piovuto anche un verme. Cazzo, ma davvero, eppure hai visto che è tranquilla, non è successo nulla. Perché le cose vanno fatte bene. Beh, giustamente come ho detto io. Le cose quelle ho fatte già dall'inizio, quelle ho fatte bene, perché se le cose le fai alla cazzo di cane, alla mano e fuzzo, avrai sempre problemi. E dunque io preferisco spenderci 2 giorni, 3 giorni in più, però alla fine alla fine il rendimento è, vedi com'è. La gamba. No, tu vai tranquillo che quella cosa funzionerà sempre bene. Ma arrivi a Porto Torres, lo so, c'è Sandro, adesso gli chiedo il controllo, vai. Come sto arrivando lì a Patatango. Attenzione, Sandro Tigre, ci sei? Sono qua. Ditemi. Stava dicendo, Bombolo, come ti arrivo lì a Porto Torres, alla zona tua, a casa tua, come ti sto arrivando, come segnale e come radio. Allora, sentiamo di con leggeri picchi positivi, con Radio 5, buona. Giappa, va bene. Ok, va bene, se è normale, guarda, va più che bene. Immaginiamoci se c'hai, se attacchi quella cosa, se attacchi quella cosa dovrebbe stare oltre 9.15 dovresti arrivare, pure di più. Vabbè, mi manca, l'alimentatore per quella la stufetta, perché sennò l'avrei già attaccata, capito? Dunque, mi manca l'alimentatore da 30 watt, perché quella che avevo mi si è bruciato e dunque mi serve un alimentatore da mio da 30 watt. Serve. 30 a pure a casa il mio ne ha 7 che è lineare lo fa andare. E vabbè, tanto ma dipende, non lo so, ma dipende, ci sono alimentatori che te lo tolgono e ci sono alimentatori che non possono dare tutta quella potenza, perché io ho quell'alimentatore di computer che spara 8 watt, capito, 8 watt, massimo 9 watt, a quando alimentare quella cosa là, ui, lasciamo perdere. Aperta. Guarda, secondo me se tu prendi un alimentatore di quelli stabilizzati da 10 ampere di quelli alimentatore, ma quelli buoni però, secondo me è stata quella cosa e funziona bene. Dappa, lo so, adesso devo chiedergli, se mi è trovato un soldo in mano, gli chiedo un preventivo a quanto me lo lascia Fusaro, è capito tu? Oh, guarda, mi conviene, per quello che dici costano un bel soldo, mi conviene ordinartelo, switching da qualcuno, se lo fai ordinare. E adesso vediamo un po'. Tanto, la materia prima ci vuole, materia prima, non me lo posso permettere, capito? Non posso fare spese che c'ho altre cose da pagarmi, tanto. Ciao, già lo so. Ma comunque, so che ne stiamo trovando uno, sto fatto, io ho 5 euro, o 20 euro, così che se c'è una roba di 30 ampere, ma era un buon po' era. Hai capito, era una bomba, era. Lo so, solo che avevo chiesto il favore a Fabrizio, quando ordinava questi alimentatori, se me ordinava un alimentatore anche a me, solo che per uno non ne vale manco la pena, capito, bisogna fare un ordine che bisogna ordinare un po' di roba, hai capito, quando ordinava un po' di roba ci mette l'alimentatore anche il mio in mezzo e me lo fa arrivare, hai capito? Ma, ok, perché l'avevo chiesto pure io un alimentatore così, però, vabbè, vedi tu bisogna buscarne uno, Gappa, Sandro, ci sei? Attenzione Sandro, ci sei? Sandro, andato, c'è me. Però bisogna buscarne uno e vediamo. Se no mi hanno buscato uno di quelli cose del computer, quelli che quegli ultimi che hanno fatto, che superano i 30 watt, capito, di potenza. Già si trovano questi, quelli che hanno 30 ampere, penso che si trovano, bisogna fare la modifica però per farli andare, cosa un altalino che sapeva modificare. Vabbè, non c'è problema, già lo do un'altra persona, un altro amico che me ne ha già fatto uno e lo do a Coso, Adriano, che me lo fa, hai capito? No, non è quello il problema, però bisogna buscarlo. Una volta che busco quell'alimentatore lì, è un gioco, ho capito, fallo. Fallo modificarlo e ma se tu procura, poi già ci penso io. Ho detto ti pago il disturbo e te lo faccio, e me lo fa. Ciao. Adesso vedo se te lo ci riesco io a frequarti, uno di quegli alimentatori. Se si chiama invece una sonda dello computer. Se ci riesco se te lo busco te lo do per volentieri, non c'è problema. Ok, ciao tanto. Vediamo nel repertorio se ne tira fuori qualcuno. Via, va bene. Ragazza. Non so di credere che sia negli che vende negozi, sono derivati da quello, da quegli alimentatori switching come quello del computer. È uguale, è la stessa roba, dentro. No, che quelli sono adibiti per il computer e quelli gli altri sono fatti per funzionare così dall'alimentatore telecom, come viene chiamato, dai. Gappa. Poi gappa. Adesso vedo. Sinnaggio gacco uno stilo loco. Chiamatelo, viene a prendersi l'alimentatore, se trovo qualche amico che ce l'ha. Capa, eia, vabbè non c'è problema. Chi ha cosa? Come si chiama? Adriano. Chi è che lo conosco? Oh, mai visto, già lo sai, tanti anni che ho sempre sentito in radio, ma di persona no. Ma anzi di vista, di persona non lo conosco. Allora lui abita nella zona di Via Sorso, capito, all'inizio, abita lì e c'ha questa stanza che fa tutte e quattro le riparazioni, i computer, i televisori, si è aperto tipo un negozio, non tanto negozio, come può essere Antonello Pomponio che c'è la casa sua dove riparare le cose, una stanza dedicata solo a queste cose, ha capito? Sì, già non so già che questo reato è sto qua, però di persona non lo conosco, con la famiglia ci conosciamo molto bene, però con lui mai, la verità. Gappa. Quale si torna alla battaglia? Cos'è? Domani si torna alla battaglia. Vabbè. Meglio battagliare che stare fermo, hai capito tu? Ancora ci hanno fatto un concerto del 1° maggio. Se continuiamo con questo delinquente, altro che concerto dici. Non esiste la va, cosa vuoi fare? Sì, capa. Brava, come dice, è troppo. Spende troppo denaro pubblico, mica si sono tolti la stipendia loro, si sono diventati loro. No, fanno dimezzare i costi di impiegati comunali, di quelli. Cioè quelli che sono trattati vengono dimezzati, penso. Hai capito? Da quella gente lì. Cioè non è per dimezzare la spesa pubblica, tutta la società creata. Non è che ti sei dimezzato tu, no, e tutti i campi che ci commenta a te, no, sempre col cittadino se la prendono, e male un piccione di sbaglia. Vabbè, tanto, questa gente è abituata così e non le puoi fare niente, il discorso è quello lì, questa gente è tutto quanto... Mi piace vincere l'immagine, ma insomma li avete mai visti i coreani? La scelta... Hai capito? La rende possibile... Putagna! Già ho capito, ma una vergogna, cioè non è che ci sono dimezzati essi, ci sono dimezzati lo stipendio loro, no? No, personale di vita pubblico, chi toccano sempre? I cittadini toccano. Adesso in tutti i cosi comunali, nei impiegati statali, il reato Marazzotti esiste, che ci rimette, quelli dimezzano quelle, altra gente senza lavoro, la massa che ne paga. È una vergogna, e guarda, è una vergogna, proprio per il senso della parola. Purtroppo, quanto viviamo in Italia, ma questa pezzi di merda, hai capito? Pezzi di merda, chi governa è noi cazzo che siamo stupidi che andiamo a votare, capito? Non bisogna buttarli, si fanno impostare questa gente qua. Prima eravamo, l'hanno criticato tanto, prima eravamo così così, ma siamo parati proprio a muglio. Siamo scesi proprio, stiamo proprio sprofondando giorno dopo giorno questo animale. Un attimo il problema da Saleva. Andiamo che vado a Cugliacca, piccolino, e andiamo dopo, tanto. Ci sono la pulita di lema, dai. Brava. Ecco. Sì, mio ospite. Scusa un attimino questo, perché chiudo la porta e arrivo un attimo. Gamba gamba. Ciucucciù, ciucucciù. Che bombone, oh. Che stai andando in corsa? Quanto non vendi il dottor Pilante, oh? Quanto? Capito. Stavo vedendo Antonio Gronde. Ah. Non ne ho idea quanto costa. Oh, e beh, bombone, come va? È tutto a posto, guarda. Soddisfatto e rimborsato. Stato rimborsato? Andato sei là, a tratta di te. Tutto gratis. Ma gratis? Che senso, quando ti stanno da parte a gratis? A me da conto, ragazzi, cosa vuoi dire io? No, no, no, a me lo prendo. Cosa mi capita altrimenti, eh? Ma quanto costa la birra al circo? Quanto costa? Al circo, quanto costa? 1,60. Certo. Al bar, pensa, costa 2,10, costava mai. Secondo me il bar, come è il bar con 3 euro. Vabbè, ma io, aspetta. Non sono mica 5 la più rapida stasera. Questo è lo spinto, la messa in cosa in frigo 5 minuti e ce l'ho bevuta, capito? In 6. Chiamma. È buono lo stesso, ma è meglio le chinusa, e vabbè, secondo te la faccio, perché chi non usa la porta di là. Quindi mi sono divertito, ho parlato, ho fatto quello che dovevo fare e basta. E poi sono andato a casa, incontrando. Ma con chi sei andato? Ciucu, ciu, ciucu, ciu. Da solo sono andato, ciucu, ciu, ciucu, ciu. Dì la verità, cos'è che dovevi fare? Devo fare un foto con una amica. Sono passato là, mi sono divertito, ho passato la giornata e sono entrato col tram. Sono stai chiamando? E tu? Andato bene sei a Melanzo? Gaba gaba, oggi è andata non bene, benino. Ha visto tempo che c'era. Anche la pioggia, au. Sì, vabbè. Da come ha messo, diciamo, il coso, dopo tanto era un pochettino così, che non poteva neanche andare in nessun posto. Poi, visto che sei figliato, quindi, adesso le 4 e 5, lavori bene così, meglio così, onto. Se guadagni, che c'è bel tempo, sono contento. Più guadagni, meglio sono contento io. E io ti dico, ciucu, ciucu, ciucu, ciucu. Il brutto invece sono guadagni e sei bruttito, il discorso è quello, ma comunque sono contento. A fare, non pensi alla pioggia che ti è un momento fortuno, vai, piazzi, fai quello che devi fare e ti tiri su. Più ce l'è meglio è, fregatene. Dimmi una cosa, dammi un rapporto di segnale, se c'hai il 140 o il 680, guarda un po', ciucu ciucu ciucu. Io non ho 180, sono 680, quindi 6,940, tondo tondo, 45 per l'altezza. Fino a quanto arriva? A 60 non ci arrivi mai, tu, stai tranquillo. Ah, nel senso che non ci arriva alla radio? No, ci arriva il segnale, non alla radio. Già ci arriva, che segnale, già ci arriva. Sì, a meno che non cambi casa. La cosa diversa, soprattutto che cambio casa io, Me ne vado in villetta a abitare e sono tranquillo. Cosa dici quando arrivi? Detto da qui me ne vado in villetta a abitare, detto. Va su, quindi copia tutti bene. Ascolta, quanto sono lunghi i radiali della Gran Prix che hai messo sulla via 27 L? Sono vento, cazzo, sono 2,65, in teoria sono 2,65, ma non è assolutamente vero. Sono 2,64, una cosa del genere. Vedi quel kit completo che c'ha coso, di quella Grand Prix. Ho aperto per prendere il tagliere su di girare, ci mette gli altri, come ho fatto uscire, stavi qua. Ti ho detto, non ci perdi niente, altri 5 anni. Dice la trattatura che c'è l'originale, da fare la trattatura con il tagliere sui conti. Capito? Sull'antenna, ci metti il tagliere su originale. Stacchi, la roba che tu c'è uno e uno, stacchi quelli, ci metti gli altri, è perfetta l'antenna. No, ma dove li prendo quelli della Grand Prix? Sta c'è la Fabrizio c'è io. No, la Fabrizio, qui ce l'avevo per la diari. Massimiliano lo vuol dire, la Fabrizio. Mi sta prendendo 30 euro. E da grande con l'antenna lì, costa 50 euro la Grand Prix nuova. Metti una Grand Prix in piena e si è a posto, l'ho fatto io. Così qua adesso vabbè, una me la devo prendere, ma sto prendendo la PA27L e poi magari ne prendo una da 30 e gli metto il radiale. E questo diceva, fai come ti dico io, Anto. Non è che me la risposta, prima fai con i radiali sono originali e ti metti 80, per dire, sto parlando di un apparecchio, per dire, metti 80, te la cogli subito, vai in 40-45 e non prende bene. Stacchi con i radiali e ci metti gli altri e tu vedrai 45 cambia totalmente la cosa, perché risuona un bel in tutti i posti, senti il QRM, senti la ricezione, capito? Perché te lo provi, provalo, io non so cosa dite, provalo, tu stai dicendo, tu ci credi ma provalo, perché come ti dico io? Dammi un attimino però, voglio vedere se accorda bene questa cosa. Guarda, leggi il segnale adesso, importante muta. Dammi il rapporto, poi il riattacco, importante muta e mi devi ridare il rapporto. Pronto? 40, sì. Quanto fa Brizio? Uguale. Sempre uguale, sì. Però c'è una cosa strana, io con un'altra ti dicevo 40, con l'altra ti dicevo più forte, però un attimino a diminuire, bene? Ok, 9-10, attacca! Ok, V30, sei V3. Cioè, va bene, quando senti direttiva io voglio andare, ti accorgi subito da riprendere il segnale, in verticale tutto porta una cosa, ma in direttiva sì. Poi fate una cosa del genere, vedrai, le tue belle differenze, Anto, te ne accorgi subito. Aspetta un attimo. Ok, non c'è problema. Non fa subito la differenza con la pompi qua. In verticale non te la accorgi perché siamo vicino, siamo a Sassari e non vedo arriva. Poi in distanza sì, ma in città niente, non vale niente, purtroppo il turbine è uno. Il problema è quando sei fuori, basta, solo la limiti in orizzontale, te la accorgi subito. Te ne accorgi pure se... Se ammassa già te ne accorgi perché scatta entra in quello scatto di segnale c'è sempre. No, non te ne accorgi, siamo vicino, capito? Non te ne accorgi, siamo troppo vicino io e Antonio. Questo lui pompa per dire in verticale da passo dalla città, per dire da 5 a 600 cambia poco, no? Non cambia molto, però in orizzontale la questione non cambia, perché è diversa, te lo sto dicendo io. Perché per guadagnare un punto S devi sempre moltiplicare per 2 il wattaggio, cioè se tu arrivi ad esempio con 4 watt arrivi a 9,10, per arrivare a 9,20 devi far mettere 8 watt, per arrivare a 9,30 devi mettere 16 watt e così via. Io cosa dici? Quanto sono 110? Sono 10 dB. 200 sono quasi 20, dopodiché comincia a stringere. E poi che passi da 20 a 22, 24 e basta. Sto facendo io per esperienza, no, peraltro. Se metti solo la volontà, la cogie subito. Se tu ti metti un dipolo e te lo faccio vedere, pompi, e io me la colgo se pompi, ma subito me la colgo, perché parto dalla, per dire, da 5 a 9, la sensazione è una cazzata per dire, però è così. Invece in verticale no. Ma te ne accorgi quando uno pompa anche da un'antenna grande e un'antenna piccola? Io per esempio sono piccolo e quando uno spinge me ne accorgo un bel, hai capito? E che certo me ne accorgo io, nel tempo la questione cambia, è diversa la cosa, scusa. Ti metto il segnale e te ne accorgi se ci guadagno. Io sono su ricezione orizzontale, in trasmissione verticale. Ma la verità io per la ricezione, per le condizioni che sono, non ho tanti problemi, sento tutti. Sento anche l'impossibile, sento per il vostro. Una cosa allucinante, guarda. Molte volte non riesco a trasmettere, hai capito? Ho capito. Scusate, stiamo cercando un telefono qua, sto facendo squillare il telefono, sto facendo una passa per capire dove sia. Spremurato, sì, hai perso un telefono in casa. Gaffa, la verità non mi posso lamentare, la verità è... La ricezione... è una abbastanza buona, però. Guarda, dai. Trovato. E i picchi come sono? Positivi. Se ne sbaglia. Vagaba. Se ci metto la mia più 4, 5, sapevi come schicchia questo. Ma Claudio, come mai non c'è? Devo dire che il letto si è fatto magari e non c'è. Ci sono giorni magari che lui entra, ti ricordi i giorni poi c'è giorni che non entra per niente. Sta diventando vecchio, è vecchio. Che c'è da vecchio? Ho fatto per sempre, ho fatto una cosa in... si è trovato un LCD, buttato nuovo. L'ho attaccato, funziona. Trovato? Tutto il video è un LCD, tutti i pollici. Alcolino, il lampadino, sono sceso quello sabbiante. Lo sto dicendo, l'ho sceso, l'ho saltato a mamma, perché è sceso. L'ho sceso io con la mondetta, ho buttato col cane, sono saltato un po' scupi. Sceso lì, qua per toccare me, toccato il questa cosa strana, il tubo strano, è solo il tuo figlio. Ora sai che avevo un accidente di nessuno, se mi vede qualcuno, ma neanche mi vergogno. Ho preso il televisore, ma sono portato a casa di mio fratello, l'attacco funziona, e l'ho lasciato lì. Così che funziona. Ragazzi, stanno uscendo tutti questi cosi moderni, logicamente. Non se ne fanno più niente di quelle lì. Facebook, meglio così, sono contento io, per la verità. Come si è speso metto la lira, gli ho regalato. È stato contento, così vuol dire. No, la verità mi ha regalato 4 lattine di cosa, di birra. Stasera, è stato contento, vedo. Non capito tutti i giorni, non ho per leggere, un televisore in casa gratis. Tu dici che va via nel coso tipo di sotto, cioè incorporato. No, quello non c'era, ma non è vecchio, era. Ci vuole il coso agganciato al ricevitore. Come modello quello era, il CD, il ricevitore esterno. Ma gaffa. Già funziona, dai, se gli usi. Avanti a to. Chi sei canna? No, cioè ci vuole, non canna. Il giorno giusto ci vuole, la verità. A volte non ci buttano le cose neanche te le immagini. Lo so, non vedo niente, è tutta lampada. Ma la verità davanti a un tipo, non è sbattuto tutto l'acqua per le palle, la verità. Ho preso quel coso, poi trovo, sono proprio attaccato, l'ho acceso e funzionò. Come vengono per niente, amico, il tipo che si amo, non è pega, proprio un accidente. Ho capito bene, ma è LCD adesso? Sì. Cazzo, come mai questa cosa buttata lì? Cosa ne so qui? Ma niente, è partita. Ma come vuoi? Numero quella, tutto dicendo. No. Ma sei scatolato pure? No, ti piacerebbe scatolato. Ma niente, è fatta, Tu sei, tu sei uscendo, sono uscendo con un cane, mi sono anche inventito la verità. Però, vergogno di aver pigliato una cosa di... Con te piglia adesso, guarda. Tutto bisogna pigliare, tutto. Io non sei vergognato. Non devi vergognare niente. Ti rompi il palle. Aspetta che la faccio entrare, dai, se no mi sta... Stavi nella porta facendo un casino. Buona intelligenza, stai tagliata, che è una cosa incredibile, guarda. Vabbè, ok, già siamo qua. Tutto l'altro. Io ho aperto la porta, io ho aperto. Un attimo che sono al telefono. D'accordo. Scappa, stavo dicendo, io ho aperto la porta. Andrà bene, andrà bene. Lo sai, di oggi a... Il giro, guarda, mi faccio il giro di trasformi che non si batte niente. Se avessi avuto un motorino, io ho fatto il giro di trasformi che non si batte niente, la barra nuova, e ci butta roba nuova per brecche, quindi non vale neanche la pena, a un certo punto. Ma c'è il patentino? No, non ce l'ho. Adesso mi piglio il patentino, mi piglio la macchinetta, esco di sera verso le 7:30 le 8, non ci buttano la roba. E mi carico la macchina di roba, la macchinetta. Io, ma le poi mi faccio i soldi così, in una fotenuta, a un certo punto. Quello che è, i televisorini, i televisatori, quello che è. Non lo finirà così, me la fotenuta a me. Pigliati la macchinetta, pigliati noi con la macchinetta 50. Se non c'è molto, un casino da fare. Si prende il patentino, e via, ti prendevo anche con le macchinette, ero manco un miraglio, cioè, puoi fare anche, non prendi freddo né niente. Infatti voglio fare con lui. Torino dice che hai bezzetta, guidare la macchina. E penso a guidare. Allora già va bene, dai. Allora. Ieri ho voluto provare il ristrada, cazzo. Che te ne fai? No, era la mia principale, l'ho preso e... mi sono fatto un giro dentro il deposito. A vedere com'è andata. Sei per una del fuoristrada, cosa mi fai? Per che cosa? Non c'è niente da fare qua, no? Non c'è montagna, no? Cazzo, sono buco. L'ho preso così per fare un giro nel deposito, per far cambiare la batteria. Mi cambierò e troverò il biglietto. Oh, non c'è bisogno di fare una cosa del genere, sta tranquilla. Però basta che lo pigliate, almeno ti pigli un bel... parecchio, se vuoi, grande, di quelli materiali, per dire... hai dove ti piace, verti. Perché... il coso è... Adesso non è il mio, è del mio principale. Adesso questo viola in moto, ma adesso non caricate la batteria. L'ho messo in moto, adesso me ne sono fatto giro dentro il deposito. Sì, perché ti faccio la roba già sarà come, non ti preoccupare. Non è che devi stare con la roba tu, no? Sei Marco? Non serve a me, io guido tutte le macchine, se ne metto. Mi posso e guido me. Imparo subito, me no, non sono stupido. Ricordati una cosa, lui non l'ha solamente finché c'è il gas. il bombo, dopodiché due fregato, su due sole cose. O se ne va in pensione, se ne fa portare in quel posto. Quindi meno che ci vada così. Per caricare le bombole o con il motocarro e cosa, le manovre che ho fatto, via. Oramai mi sono sempre imparato, o qualcosa, come si chiama, qualche volta anche con la macchina, cioè la sera con la macchina di babbo, la tolgo, la sposto, faccio, bomba. Sì, va bene, non perché... Quando arriva qualcosa me lo tu? Chiappa, qualche volta ha messo a due ruote quella vecchia. Ma dove, io non ho capito, dove che avete la rivendita? Via Milano, lì dove c'è le ambulanze, ci sono quelle quattro villette dove c'è l'assicurazione, ce n'è presente? Quello dove c'è la guardia di finanza, dove doveva andare la guardia di finanza? Questo è invece via Milano, ci sono circa quattro villette, anzi quattro, sono due, una attaccata all'altra, e sono di fronte al coso, sono all'inizio di via Milano, diciamo, di fronte, sono borse di colore. Mi devi dire l'incrocio, qual è? Via Milano con curazione, bene. Ma senti, c'è la ambulanza lì, ci sono addirittura. Aspetta, è presente la Sassa Rese Gomme, cioè la rotatoria della Sassa Rese Gomme, ecco, più in giù o più in su? Ma quella rotatoria? Più in giù, Vienna, via Milano, lì, salendo, e quel cancello, hai capito? Cazzo, mi sa quando sei volte ci sei passato? Sempre, però ti sto dicendo, lei scendendo dalla parte destra scendendo oppure destra salendo? Dalla parte di Tabiano che poi era salendo, dalla parte di Cagliabruzzi in quella zona, come prendi la prima rotatoria, vedi dove c'è la circolazione, non c'è la circolazione, dove sono quelle celeste rosse, vedi? Ah, ho capito. Ci sono quelle celeste rosse, ti è presente, poi c'è l'ambulanza, ci sono anche loro. Io sono di dentro, insomma. Poi c'è altro che vendere di bombole, quello che si porta tre ragazze che parla, in pratica dove c'è la Fiat. Oh, quella è un'altra persona. Sì, lo so, aspetta, non so chi è quella, quella è un'altra persona, non è un'altra persona mai. Quello sarebbe vendita le bombole, dove c'è la Fiat e via Montegrappa. Le paziente ce l'ha impiatturati quello lì e le paziente vabbè c'è un giovedì comunque le paziente c'è un giovedì dalle paziente anche lì anche da dove c'è la benizia ciao ma sempre da cosa sempre da cavolo stai prendendo tu o Anto cosa da chi? L'inviaro che quello che c'è in via dei Gremi adesso, l'inviaro che prende era chiuso. Da Daniele Cau, sì. Ogni tanto sì, se le prendo da lui. Se non le prendo da voi, dimmi dai contatti, già c'è il tuo numero. Ma guarda, io ne consumo talmente poco che a livello di una ogni 4 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Non va buona, cosa fai? Non cucino mai allora che tanto, cosa fai? Fai gli imbottiti fai. Cucino, ma c'è il forno elettrico, quindi è solamente per i fornelli. Se una bambola io ce l'ho in campagna, me l'ho data Antonio, sarà minimo un anno e mezzo, ancora in campagna ce l'ho buttata, me l'ha fatto la casa e la bambola ancora lì, figurati. Adesso per lavorare sto usando un bombolino da 2 e quelli quindi da 5. Va bene, la 10, la 10 la mia, quello che ho io. Se non avevo consumato 3 euro di bombola, figurati. E in campagna buttata. Hanno fatto la casa, la bombola è lì il resto c'è tanto, proprio via, due chiappe e basta. No, ma quella che stavo portando io là, quella qui, c'è? Cioè, non può più se le abbiamo, se puoi immaginare. C'è un campagna guarda lì, buttato da parte. Ma è usata, cioè è usata 5 minuti per me, non di più, per fare due secondi di catturame lì, ma ci sono invece di gas. Ma adesso ce le abbiamo azzurre, ce le abbiamo, come la mandiamo delle strade, azzurre o blu? Non capito, invece quello che c'è io è grigia. Paola, giù? Sì, va bene, ma guarda, c'è un corno, tutto a poco, e tutti presenti, capito? Vabbè, tutti presenti, tanto domani mattina per la turma a voi, perché dice che non sbaglia la cosa principale tua. Paola, giù? Hai capito? Però per pesciolare. Auraggio. Auraggio. Sì, tu vai. Cosa mi dici? Mi stai salutando, mi questo. Presentati, presentati, però per presentati. Auraggio. Non so giocare. Auraggio. Era ancora con nessuno. Se credo che stavo contato non sono nessuno io, quindi sono a posto, tranquillo. E basta. Paolaggio. Paolaggio. Ma tu manco malaggio. Mi donaro. E non te lo proprio. Lo sai perché, lo sai perché. Perché io stasera era donna e tu no. E vabbè, e mi sono guadagnato quei 5 euro a spendere al circolo, natore. E io aspettando che quel posto là, no, certo, quel bidone mi è fatto, sì, stai tranquillo Giuseppe, stasera vengo, sì, domani la marca te ne vai a cazzo, sino alle 7:30 aspettando a te, eia, domani. Così fare, perché io sono molto dominato con le donne di aceto storico, già lo sai, quindi che devi fare. Ehi, bidonaro. Cazzo, tu sei a te, ti devo chiamare Antonello Bidonaro. Ho capito tanto, non ci sei. Adesso ti devo chiamare adesso, da oggi in poi, Antonello Bidonaro. Non senti chi parla, la mia, con il tuo notate. Lei che ha detto, beh, adesso aspetta, aperto a Giuseppe, a me lo viene anche lui e si diverte anche lui. Sai che o no, cazzo, mi sono battito io e dopo sto parlando a te, non sei mancolo. No, no, non esiste quello. Quando giù giù, un caracuna. Ma se ce la faccio a parlare anche a loro, se non c'è tutto lì. Mi sono battito io, cazzo, un'altra volta. Devo portarmi anche a Giuseppe, no. No, tu se vuoi la mia fiducia. Deve fare la brava, lui lo sarà già la tua volta. Lei deve dare la fiducia, lui. Come si fa su internet? Deve dare l'amicizia come si deve, se no niente amicizia, niente fiducia. Tu sai che cosa? Io non l'ho compreso. Perché Giuseppe è un maniaco, una volta così è un maniaco, Quando si vede davanti una cosa del genere, uno cosa deve fare? Ma scusa, ho pensato che una ragazza dice, no, quella per me non è battuta, lei, no, ho detto, guarda, quella per me, no, tu sei sposato per me, capito? Sono tutto se tu ce ne sono. Se lo sono tranquillo, no, dice, tu sei sposato, quindi tocca a me, hai capito? Allora che fai tu? Non ho fatto niente, purtroppo, però vuoi ti ritegno. La cosa mica mia, la cosa è la sua, e io va, è libera, arrangiati, ma a un certo punto se uno lascia di una persona cosa vuole fare? Mi faccio in quattro. La prossima volta la scelta, faccio un coso, la scelta, te da te, cosa, Giuseppe, e almeno c'è da due persone di fronte all'altra. Faccio il curriculum, come diceva quello, una fotografia, quante si è fatto di donne, quello che deve sapere qualcosa, perché sapere qualcosa va tutto bene. secolo 1 dopo, non ci sono problemi, dai. Papà, facciamo una cosa, da quando è faremo e conosciamo. Vabbè, ci sono. D'accordo, ok, tu sei, tu sei d'accordo? È sparito, dicola. Io non sparisco, io ascolto sempre, io ascolto, hai capito? Orecchie di parafango. Scusa, siccome ho fatto il curriculum, come dice cosa? Tutto il tuo giornale. Io faccio il curriculum di tutti e due. Vediamo quante ragazze avete avuto, quante non avete avuto, quante avete avuto, quante curriculum. Poi non ci diranno. Se c'è la buona, non la perdere. Tu sei la copia di Giuseppe. Ciao. Ok, tu hai avuto la copia sempre di curriculum. Facciamo il curriculum, va. Ecco, tu ti fai... O mi consegna la storia e siamo a posto. Quindi ci consegna con gli studi. Ma pure abbiamo un curriculum, lo fuggiamo, ma... E ballando. Glielo facciamo noi il curriculum, allora lì, le facciamo il curriculum, la lascio e la metto in piega. No, la metto a punta, dite. E anche la metto in pompa le facciamo, e le facciamo vedere come si attacca il rubinetto della bombola. Piazza così, piazza, e noi, crackere. Ma bisogna essere gentile con le signorine, perché è pezzina. Tu, se ripresentiamo quella che abbiamo visto alla Sisa, altro che quelle sono, vero tu? Non si, sono Sisa, non lo sai. No, quelle sono buonate, sono amiche mie. Guarda, lasciate come la Sisa, potete dirmi. Dio Antonio, quando ho detto che sto dico, cosa ha visto voi? Mamma mia, fammelo far ricordare, ma facciamo anche, cazzo, è diventata più sorta di Luca Ciampista. Capito Giuseppe, eh? Io non conosco di base, di cose strane lì. La brasiliana spagnola è un'amica che di botti. Tutti quanti trans sono, tutti quanti trans e travestiti. Sì, sì, dimmi a tutti che sono travestiti trans, tra due saranno, si imboccano. No, chi sarà femmina tu che è trans, chi sarà tutta femmina era. Ma Sonia Grotte non c'è più. È sparito. Quella di Borodizio che era buona. Giuseppe mi ha trovato via in trance, non hai capito? Quando lavorava a cosa? A che posto di cosa? Non sai cosa faceva lui? Non hai detto lui la verità, non può dire no. Poi quando lavorava male, se non andava, ci ha trovato la moglie. E quindi lui se ne va al coso, nei corsi, non nei circoli. E quindi trovava il tutto. Trance, trazioni che poi vedono di tutto il tuo papà lì. E quindi si chiama quando c'era purtroppo. E io direi sì o no? Cosa? Quello che c'è che tu mi hai detto io. Ma non la devi neanche scherzare, non la devi neanche scherzare con la storia lì, cazzo che... Cazzo la moto che andrà a cazzo con i trans io, ma non sarà, no. Come che te ne accorgi, guarda, se tu non sei conto che quando ti aggancia perché ti aggancia la tua parola, la vecchia con le pompiere, ti ha fatto. Ammazza te ne vai a Mutu, cazzo, che tu già ne sai qualcosa, cazzo di... di quelle questioni là, viene conosciuto tu quelle porcellone. Però mi sei detto quella. Io perché avevo proprio l'abilità così, ma non ho conosciuto, però ti posso dire una cosa. Ti raccogli subito quando c'hanno qualche cosa di strano, quando sai che là sotto che c'è un altro ombrello, posso fare la statua a chi vuole fegato, eh? Tanto che lo sai tu già? E Barraro ti venga ricata, eh? Te la posso lasciamo perdere il discorso, che no, non ne vale manco la pena di fare niente, dai. Oi. Parliamo di altro, dai. Accidenti, non c'è problema di contrattazioni. Sapete che appunto mi guarda che non è una sola cosa che è capitato, da gente. Ma che tu lo conosci, che a un certo punto la mettono al volo di capire al naipe cosa è questo automatico manico di palacqua, Un po' giù a Coso, al locale giù a Bancali, a Cenena Bancali, a Regista, che mi è capitato invece di essere femmina, cazzo, questo qua era un travestito, cazzo. Adesso gli ho dato passaggio, cazzo, e me era due che in mezzo, cazzo, ho detto, se non stai fermo le mani, cazzo, te le taglio io con le mani che c'hai, da vampiro, cazzo. Si è fermato una macchina, non ci credo, ma anche morto. Tu ti sei fermato perché ti sei sentito senza benzina. Non c'aveva nessuno a accompagnarla allora, questo qua che lavorava nel locale, no? E mi ha detto, diceva tu devi andare a Sassari, ho detto sì, io devo andare a Sassari, non è che mi dai un passaggio, ho detto vabbè ti do un passaggio e dimmi dove devi andare, nella zona di Coso, di che cazzo si chiama, quello, nella zona di Via La Margua, quella zona lì. Vabbè, ti do un passaggio lì, cazzo, nel momento che io stavamo salendo, cazzo, questo non ha... mi ha approfittato e stava mettendo le mani in mezzo, da cazzo stai facendo? Ma io volevo toccare per se ce l'avevi, e ho detto, lascia perdere, non ho roba per te quello. Quello che può andare per dire dietro un coso per fare quello che devi fare e tutto con Margarello, allora sì che sono tutte figure davvero brutto è quello. Giuseppe, allora se ti porto una persona te lo faccio dire da questa persona qua che ha lavorato con me, ha lavorato in questo locale qua da lì a Regizia e da lui, a me dice, c'era questo cazzo che era vestito che faceva le serate lì nel locale lì in Egizia, e beh, a me mi aveva preso in prova, e più quello là, il padrone, cazzo, mi ha bruciato i soldi, hai capito? Devo dare i soldi delle giornate che aveva, ma appena me le ha bruciate, come a me e come altra gente le ha bruciato, perché era un grandissimo pezzo di merda, figlio di puttana, hai capito? Ah, ti ha preso in prova. Dice questo, dice, non si aspetta a me, ti ha preso a lui. Non approfittare tutto, tu c'è una agizia. Io avevo 5 o 6 ragazze, le facevi una ogni giorno. E avevo detto, siamo pari. Tu non devi venire, non ti devo niente. la garanzia per risolvere a te. E questo è stato tranquillo. A un certo punto, per dire, se è arrivato un controllo, avrei detto, ah, questo è un lavoro ricco con me. Io mi sono assunto un paio di giorni e me ne sto andando, avete detto. Non conosco nessuno io. E che hanno chiuso quel locale Non ho capito tu. Che hanno chiuso quel locale? Vabbè, aspetta. Sto parlando. Uno prima del 2001, un altro 99, una cosa così era, che io allora avevo bisticciato con i miei genitori e me ne ero andato e dunque mi avevano chiamato per fare la prova lì, in quel locale lì, e ho fatto una settimana di prova e lavoravo dalle 9 di sera sino alle 6 di mattina. Figurati, no, così era comunque l'orario, perché da la cosa era quello lì, 9 di sera fino alle 5 di 6 di mattina, lì la cosa, come si chiama lì, quindi se la cosa è uguale, non cambia niente. Però lì, così era la cosa, Claudio, quindi con i capelli rossi. E avrei conosciuto sentito tu quanto coso, quindi non c'è problema. Beh, togliaglio quel frigo, ecco. Comunque adesso mi sembra che mi sono cambiati, quindi adesso poca roba c'è rimasta, di queste cose, meno male, sono cambiate le cose, è la ora. I locali notturni ce ne sono poche e nulla adesso, i locali no. Non esistono più locali notturni, qualcuno lo puoi trovare, non so se c'è ancora quel locale notturno che scendendo giù alla Landriga, dietro la chiesa che si scendeva lì, c'era un locale notturno lì, però adesso non so se esiste più. No, c'era quello di registri bancari, c'era la Landriga, la discoteca che c'era prima. Poi c'è la promotora, se quel locale che c'è prima che vivevo in campagna mia, te lo ricordi? L'avevo visto parecchie volte. Poi c'è il Marini, poi non mi ricordo, c'era la promotora, se quello famoso. Comunque sono andati veramente pochi di locali notturni. Poi la gente ci andava lo stesso, a parte tutti quei citofobici, neanche ti immaginavi tu di trovare la verità, perché essendo lì, cioè, Marini, sai quanto ci hai trovato, che conoscevo, tu che ci fai qua, guarda, non dire nulla, lascia perdere, io sono posato qua e là, tutti li andavano, perché c'erano polacche, russe, cose del genere, allora sono andato per fare di ciucucciù e basta, no, per l'altro. Lo so, lei già li ha conosciuti quei locali. Ho girato a Corso, come si dice, il Marini, ho girato l'Egitto, vabbè, dove ho lavorato io, l'Egitto, poi ho, c'è l'altro, quello, il Mais, poi ce n'era un altro lì a Corso, a Porotolese, dietro il Ponte Romano, lì lo stesso, lì locale notturno, e poi c'era, aspetta come cazzo si chiama l'altro locale notturno, poi c'era il Blue Sachs a Dei Punti, che ce l'aveva Torre Baracocco, giù a Barbelonga, a casa mia, che c'era, che adesso hanno fatto quel ristorante birreria, prima c'era un locale notturno lì, e comunque già ne ho conosciuto anch'io. Esatto, vabbè, poi c'era quel locale notturno che c'è, mi sembra c'è anche tuttora, la verità, perché quello vicino alle carceri. Ho capito, e poi c'era quello di fronte a campagna. vino rosso. Attore, giusto. Ma tu ti sei girato, Giuse? Sì, quasi tutti, ma l'entrata io non la pagavo, perché allora si pagava l'entrata, ma io conoscevo tutti quanti i buttafuori che c'erano, e dunque come entravo era subito al bar, e dice io cosa prendi, cosa bevi, alla fine quelli che non spendevo dell'entrata le spendevo al bar io. E ti cuocevano? Davvero, mi cazzo, la roba di cottura mi sono pigliato cazzo dentro quel locale, tipo a cavallino rosso, cavallino pazzo, lì una notte sono andato e eravamo in tre, e avevo appena finito di lavoravo alla stazione, no? E cioè avevo appena iniziato lo stipendio, dovevo darlo alla mia ex moglie, perché abitavo a Marcali io. Sudato di andare il stipendio, tanto gliel'ho dato io, cazzo tutta la notte, cazzo, sino all'indomani non mi aveva mai visto. Dice, ha detto mi aveva mandato a cercare dalla polizia, e io ero a casa di questo amico, cazzo, in campagna, drumito, cazzo, che c'è anche l'altro, dalla cotturaria. Maniaco, visto? Te lo immagini? Detto che è esagerato, eh? Vabbè, tu, ma allora prima si poteva fare, hai capito? Prima si poteva fare perché non avevo problemi, hai capito? I soldi c'erano, perché c'erano. Adesso non si può fare più questo discorso perché i soldi non ce ne sono e non lo rifarei perché non me ne frega più niente, ormai prima non me ne fregava niente, capito? Ero giovincello e diciamo come ti posso dire, ero un ragazzo uccello, capito? E non me ne fregava niente della roba, perché quando sei un ragazzo giovane pensi solo a divertirti e a certe cose, quello che pensi adesso no, prima non ci pensavi, capito tu? Le scappa. Ma pure tu hai esagerato, è la verità, Dio Maria. Ma accusando a Ciacchi stai da detto che sei grande. Guarda, ritornando indietro, avrei voluto tutti i soldi che mi sono sperperlato in quelle cose là, in quelle cose, a quest'ora sarei stato non bene, benissimo, capito? Perché me ne sono mangiato di soldi, me ne sono mangiato anche a uffa, hai capito? Adesso me ne sto accorgendo di lei. Se avrei avuto quei soldi là, a quest'ora mi avrei aperto un locale a conto mio e tutto quanto. Sono cose errori che si fanno. A te è pure un coniugato, vede. Cappa, meno appena sposato. Mi sono sposato il 20 maggio del 95, ha capito? Cappa. Fatta mangiare abbastanza la stata di pirata che sta a femmina. Ehi, vabbè. Lì era piccolina, era minorenne quando l'ho cresciuta io lì, era minorenne e eravamo messa anche incinta, capito? E dunque, dici, è brutta la bicicletta, va a pedala. Adesso non sei più fervendo come prima, non ti sei calmato, sì? Non sto toccando niente, hai capito? Io no, a colo ci mica, solo pulire a tonnello, se mi ha mai visto bevendo alcolici o superalcolici, mi chiede a tonnello, qualche volta quando è assieme a lui un bicchiere di birra, ma uno contatto, confermi a tonnello. È sicuro? Sono due. non è come prima, è vero Antonio? Sì, ma invece è vero purtroppo che ti bevi il vino con gli altri, come è stato l'altra volta Rossi, quindi niente di strano, guarda, uno può bere ciò che vuole, basta che sei tranquillo, chi se ne frega. E scappa. E adesso bisogna andarci piano, bisogna andarci in questa roba. Qualche volta anch'io già me l'ho presa una imbriaghiera, ecco. Però non è... Cioè, magari all'inizio dell'anno, cioè, a Natale, a Capodanno, mi scaldo un po', quando c'è qualche festa, se no io di solito bevo acqua. Acqua naturale, acqua gasata. Guarda, se non tu vuoi dire una sorta di vino, dimmi quello che vuoi, ti perdo il cane, tu sei tranquillo. Tu sei andato, sei tranquillo, se sei contro ti fa manco entrare. Quindi devi essere liscio, tranquillo e gasato, senza avere problemi. Ma sono stato più scubito a casa e quindi figurati tu. Adesso devo entrare, chiedi permesso per poter entrare, mi addormento, lui puoi fare il dovere che deve fare, se no se mi vede poco strano, io mi abito io Giuseppe, è come del chilometro quello, no, ti si avventa. Era stato buono con me, se no l'ha buttato un muro. E gli dà, Giuseppe dimmi dopo come scusi. Lascia perdere tu, è meglio, guarda, meglio che cazzo non incontri quel cane, perché quel cane è cazzo maledetto, cazzo è, ti ricordo alla sconfidata, capito, ti segue e da voi, trackere, ti musica alla sconfidata. No, Tannusa, bello per Tannusa, se sei bevuto sei fregato. Ne approfitta e comincia a vinghiarti, se invece sei tranquillo, ti abusa, allora sei, puoi entrare tranquillamente. Te l'ha fatta a me un sacco di volte, infatti per quello che io quando mi porto a casa non bevo niente, bevo dopo per sicurezza, non sai che c'è 20 prima. Ma io ti assicuro Antonio che con me era stato un magnetino e era diventato, ma posso fare il bravo, avrebbe fatto bene. E se te lo presento, vediamo se fai così come dici tu, là. Come questi giorni. Sto dicendo, Giuseppe già lo conosce anche bene. Io ho altrettanto, e anche altra gente. Sto dicendo che non è così come pensi tu, a Fittitini. È un cane un pochino strano, figurati. Vabbè, ci diamo una ragnatina. Ripigliatela, Giuseppe. Ma devi lavorare domani. Sì, verso le 11:30. Dove finire le 11:30 Giuseppe? Non diventa bravo, un cazzo, diventa bravo. Perché il cane non si deve mai avventare a una persona. Non deve assegnare, soprattutto al padrone. Anche se un cane si avventa al padrone, che ha circolato un muro. Non è così facile come si trova Fudettini. Forse Giuseppe, verso 11:30 finisco domani mattina. Ma dimmi una cosa, ma tu non devi fare martedì, giovedì e venerdì, non c'è gli stessi turni lì. Ma martedì, certo lo faccio martedì, giovedì e venerdì, per quello sono problemi. E allora tu domani, ma io non ricordo quando ce l'hai tu, quando te l'ha segnato. Io faccio come lavoro martedì, giovedì e venerdì, basta, non faccio altro. E dunque domani il mercoledì non ci devi andare. Appunto, per quello, ogni mattina io vado un daniere, lo sai. Ah, vabbè, quello non lo sapevo. E se te lo ricordo, l'ho detto io. Tanto secondo me non mi attiva, non l'ho messo mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, una cosa del genere, forse anche prima, là. Ah, ciao, là. Ok, dai, vabbè, ti lascio andare a riposare, a me la domani mattina, vai tranquillo al lavoro con Daniele. E fatti pagare, Antonio, fatti pagare, tanto che quello cazzo mi pare cazzo peggio di. Cazzo di. Di quell'amico Fritz. A me basta che mi paghi, poi non me ne frega niente. Poi adesso ho fatto la domanda per un'altra cosa, Giuseppe, quindi sono in mezzo alla mondezza, hai capito? Lì al monte. Quindi sto bene, me ne sbatto le balle di tutti. Lì sto veramente bene, quando c'è qualcuno, qualche baracchino, qualche antenna, me lo zappo io. Giustamente, Antonio. Cioè, ce la fai a fare quello che hai detto, sono contento per te. Già, è vero, io. Non mi ha fatto nessuno, conosco nessuno, come faccio qua, pertanto? Dove sto lavorando adesso? Quando vado, faccio gli affari miei, non conosco nessuno. Noi, quando dico le cose, non so niente, a me mi ha detto solamente di fare questo e basta. A me di te non mi interessa proprio niente, non ti riconosco, quindi sono fatto così. Più fai così e più campi. Beh, giustamente, è come hai detto tu, più ti fai campi tu e più campi. Vabbè, dai, ti lascio andare a dormire, dai, ci sentiamo, dai, anche io faccio pulizia e ci sentiamo domani. Ciao Antonio, ciao Antonio Bombo, ci sentiamo domani se coincide, dai, pulizia per me. Ciao, ciao. Ciao a te, Leoncino, dai, ce la sentiamo. Ciao, buonanotte a tutti, ciao ciao. Comunque, tu già lo facciamo con la questione Rami, quello che mi ha detto stasera, hai capito? Ok, adesso appena che... lasciamo andare la situazione, appena che ci mettiamo d'accordo e vediamo. Ok, capa, ciao ciao, buonanotte, salutami a tuo padre. Tanto adesso già lo sai che tra poco mi c'è il caldo, così che piace di più. Capa, ok, dai, ciao ciao, buonanotte.